rimane in atmosfera, viene trasformata o viene trasportata, ed è praticamente quello che respiriamo. Questa distinzione è molto utile per capire che cosa fare, così? Si sono osservate situazioni diverse a seconda di se si parla di emissioni o di qualità dell'aria, perché in termini di emissioni, per esempio di inquinanti atmosferici come il particolato e l'NOx, le emissioni da trasporto sono ridotte negli ultimi 20 anni in tutta Europa, e anche negli ultimi anni disponibili, dati disponibili, cioè il 2013 e il 2014, si è osservata una riduzione delle emissioni da trasporto di circa l'1-2%. Quando però ci concentriamo sulle emissioni del trasporto passeggeri, quindi sulle auto, abbiamo visto nell'ultimo anno un incremento delle emissioni di NOx. E questo è il primo aumento che si è osservato negli ultimi 15-16 anni. Ed è dovuto ad un aumento della domanda di trasporto, cioè la gente gira di più in macchina, e ad un aumento del numero dei veicoli diesel, che sono i principali emettitori di questo inquinante. Una situazione simile si è vista anche per le emissioni di CO2, il più importante gas a effetto serra, quindi l'anidride carbonica. Si è osservato un aumento delle emissioni da trasporto nell'ultimo anno, un incremento che è dell'1%, quindi è abbastanza ridotto, però è un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti. Nel 2008 e 2013 si era infatti vista una riduzione. Per la CO2 la situazione è un po' complessa, perché siamo ad un livello di emissioni che è 20% in più rispetto ai valori osservati nel 1990, mentre ricordiamoci che abbiamo un target da rispettare a livello europeo, c'è una riduzione entro il 2050 di circa il 60% delle emissioni, quindi praticamente negli ultimi 15 anni siamo andati in direzione opposta, cioè abbiamo aumentato le emissioni invece che ridurle. Questo bilancio che cosa porta a considerare? Bisogna intervenire se vogliamo rispettare la riduzione delle emissioni che ci siamo proposte, e se vogliamo in un certo senso risolvere il problema in modo radicale, perché al momento sono state fatte delle azioni, ma ancora non risultano efficaci. Proponiamo tre diversi approcci, che sono quelli di evitare, cambiare e migliorare. Evitare vuol dire cercare di evitare l'utilizzo dell'automobile, ad esempio. In Italia la situazione è molto particolare, perché abbiamo un record europeo di auto per abitante, ce ne sono circa 60 per 100 persone contro i 50 della media europea. E come si può ridurre l'uso dell'automobile? Beh, diciamo che sono già in atto diverse politiche che possono aiutare a ridurre l'uso dell'automobile, come ad esempio il car sharing, quindi la mobilità condivisa. Attualmente in Europa ci sono circa 200.000 membri di car sharing, una percentuale molto bassa dello 0,5%, ma è un segnale importante di cambiamento. È incrementato molto negli ultimi 5 anni. Segnale altrettanto positivo è che le giovani generazioni sono meno interessate a possedere un'auto. Questo fa sperare un po' di più per il futuro. Si può scegliere di fare teleworking invece di andare tutti i giorni in ufficio, cercare di utilizzare teleconferenze invece di riunioni. Per abbassare, come dire, l'impatto dei viaggi e dello smog, e quindi in realtà le soluzioni dal basso sono delle soluzioni che possono essere un punto di partenza. Ma certamente, anche nel secondo approccio ancora di più, quello del cambiare, il cambiamento, cioè utilizzare dei mezzi più sostenibili, soprattutto in città. Ci sono alternative, ci sono ovviamente i mezzi pubblici e soprattutto le biciclette. Ci sono le biciclette pubbliche, che diffuse in molti dei paesi europei, che riescono a ridurre del 10% l'utilizzo delle auto. Un esempio che mi piace molto citare è quello di Siviglia, perché è una città del sud, quindi anche nel sud è possibile utilizzare la bicicletta. In 4 anni sono riusciti ad aumentare il contributo della mobilità ciclabile dal 0,5 al 7% grazie alla costruzione di piste ciclabili. Hanno costruito 80 chilometri di piste ciclabili, e questo ha portato un incremento dell'utilizzo della bicicletta. Ovviamente sono ancora cifre basse se si riconfrontano con Amsterdam o Copenaghen, dove il 30-40% delle persone utilizza la bicicletta. Tanto che nel 2015, per la prima volta a Copenaghen, il numero di biciclette entrate nel centro è stato superiore al numero delle auto. Qual è l'aria sicura secondo i parametri europei? C'è un limite annuale che corrisponde a 40 microgrammi al metro cubo per quanto riguarda il PM10. Un limite giornaliero che è circa di 50 microgrammi al metro cubo. Per il PM2.5, quindi la granulometria più fine del particolato, esiste un limite giornaliero di 25 microgrammi al metro cubo e un limite annuale anch'esso di 25 microgrammi al metro cubo. E per raggiungere gli obiettivi, anche europei, bisogna partire sempre dal basso, con soluzioni però rapide, mirate e semplici da realizzare, come spiega Giuliano Dall'O, professore di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano. A partire da subito occorre pensare a una gestione dell'efficienza energetica negli edifici, in particolare nel parco edilizio esistente, che non sia una gestione di emergenza. Penso che l'Europa